virtù. Pensa soltanto che Roma non accorda cittadini né regine sposa, che io sempre fui un tuo servo fedele. Ora mi ammiro il tuo zelo, il tuo merito, al tuo servire quella merce che promi non ti posso più dar. Ascolta e taci, vedi, non soffri amor, tu non mi piaci. Agli hai fatto il voler, a torto dunque essere tuo ti ha scritto un decreto del cielo a mio delitto. sepolta ancor, devi una vittima finalmente placar. Qual più gradita al sospirato mio dolce conforto sarà della mia vita. tua vita insidiar sate, Tolomeo. Ma già respinti son fuor della città, forse a momenti verranno per assalirla. Incustodite son le porte di lei. Sarete paghi al fido, forse di... Se tu cerchi una vittima, egli è troppo mio. Te la prometto adesso in Tolomeo. Il mio giusto desio, sospirato idol mio, resti sospeso, finché agli Elisi possa vendicata venir. Allora pieno s'adempi il sacrificio in questo seno. Non so se io debba sperar o temere, sempre chi adora privo di dolce speme usa suo pro le violenze estreme. Navigante, lui nel fidarsi all'onde, gran nube il sole asconde, e un'aura non costante, bene scherzati in mar, bene scherzati in mar, bene navigante, qua navigante, lui nel fidarsi all'onde, gran nube il sole asconde, di un'aura non costante, bene scherzare in speak. navigante, cui nel virar si allonde, gran nube il sole asconde, e un'aura non costante per scherzar il mar, per scherzar il mar, per navigante, qui nel fidarsi all'onde, gran nube il sole asconde, di un'ora non costante, per scherzar in scherzare in mare, deve scherzare in mare.